Cari fratelli e sorelle, vorrei oggi parlare su San Benedetto, il fondatore del monachismo occidentale e anche patrono del mio pontificato, e comincio con una parola di San Gregorio Magno, che scrive su San Benedetto: l'uomo di Dio che brillò su questa terra con tanti miracoli non rifulse meno per l'eloquenza con cui seppe esporre la sua dottrina. Queste parole il grande Papa ha scritto nell'anno 592. Il grande monaco San Benedetto era appena 50 anni prima morto, ma ancora vivo nella memoria della gente e soprattutto nel fiorente ordine religioso da lui fondato. San Benedetto ha con la sua vita e la sua opera esercitato un influsso fondamentale sullo sviluppo della civiltà e della cultura europea. La fonte più importante sulla vita di San Benedetto è il secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno. Non è una biografia nel senso classico. Gregorio Magno intende un'altra cosa secondo le idee anche del suo tempo. Intende piuttosto illustrare, mediante l'esempio di un uomo concreto, appunto San Benedetto, l'ascesa alla vetta della contemplazione che può essere realizzata da chi si abbandona a Dio. Quindi ci dà un modello della vita umana come ascesa al vertice dell'essere umano. San Gregorio Magno racconta anche in questo libro dei dialoghi molti miracoli compiuti dal santo, e anche qui non vuol semplicemente raccontare qualche cosa di strano, ma lo scopo principale è di dimostrare come Dio, ammonendo, aiutando, anche punendo, interviene nelle concrete situazioni della vita dell'uomo. Vuol mostrare che Dio non è una ipotesi lontana sull'origine del mondo, ma è presente nella vita dell'uomo che è aperto per lui. Questa prospettiva del biografo si spiega anche alla luce del contesto generale del suo tempo. A cavallo tra il V e il VI secolo, il mondo era sconvolto da una tremenda crisi di valori e di istituzioni causata dal crollo dell'impero romano, dall'invasione dei nuovi popoli e dalla decadenza dei costumi. Con la presentazione di San Benedetto come astro luminoso, Gregorio voleva indicare in questa situazione tremenda, proprio qui nella città di Roma, la via di uscita da questa notte oscura della storia. Di fatto, l'opera del santo, in modo particolare la sua regola, si rivelarono apportatrici di un autentico fermento spirituale che mutò nel corso dei secoli, ben al di là dei confini della sua patria e del suo tempo, il volto dell'Europa, creando, dopo la caduta dell'unità politica che era creata dall'impero romano, una nuova unità spirituale e culturale, quella della fede cristiana condivisa dai popoli del continente. È proprio nato così la realtà che noi chiamiamo Europa. La nascita di San Benedetto viene datata intorno all'anno 480. Proveniva, così dice San Gregorio, ex provincia Nursie, dalla regione della Nursia. I suoi genitori benestanti lo mandarono per la sua formazione negli studi a Roma. Egli però non si fermò a lungo nella città eterna. Come spiegazione totalmente credibile, Gregorio accenna al fatto che il giovane Benedetto era disgustato dallo stile di vita di molti suoi compagni di studi, che vivevano in un modo dissoluto, senza Dio e senza vera umanità, e non voleva cadere negli stessi loro sbagli. voleva piacere a Dio solo, soli Dio piacere desiderans. Così, ancora prima della conclusione dei suoi studi, Benedetto lasciò Roma e si ritirò nella solitudine dei monti ad est di Roma. Dopo il primo soggiorno nel villaggio di Effide, oggi Affile, dove per un certo periodo si associò ad una comunità religiosa di monaci, si fece eremita nella non lontana Subiaco. Lì visse per 3 anni completamente solo, in una grotta, che a partire dall'alto Medioevo costituisce il cuore di un monastero benedettino chiamato Sacro Speco. Il periodo in Subiaco, questo periodo di solitudine con Dio, fu per Benedetto un periodo di maturazione. Qui doveva sopportare e superare le 3 tentazioni fondamentali di ogni essere umano: la tentazione dell'autoaffermazione e del desiderio di porsi se stesso al centro, la tentazione della sensualità e infine la tentazione dell'ira e della vendetta. Era infatti convinzione di Benedetto che solo dopo aver vinto queste tentazioni fondamentali egli avrebbe potuto dire agli altri una parola utile per le loro situazioni di bisogno. E così ha pacificata la sua anima, era in grado di controllare pienamente le pulsioni dell'io e di diffondere pace intorno a sé e di essere un creatore di pace. Solo allora decise di fondare i primi suoi monasteri nella valle dell'Anio, vicino a Subiaco. Nell'anno 529 Benedetto lasciò Subiaco per stabilirsi a Monte Cassino. Si spiega questo trasferimento come una fuga davanti agli intrighi di un individuoso ecclesiastico locale. Ma questo tentativo di spiegare questo trasferimento si è rivelato poco convincente, cioè la morte improvvisa di questo ecclesiastico non indusse Benedetto a ritornare. In realtà questa decisione gli si impose perché era entrato in una nuova fase della sua maturazione interiore e della sua esperienza monastica. Secondo Gregorio Magno, l'esodo dalla remota valle dell'Anio verso il Monte Cassio, un'altura che dominando la vasta pianura circostanze, visibile da lontano, questo esodo riveste un carattere simbolico. La vita monastica nel nascondimento, finora realizzato, ha una sua ragion d'essere, ma un monastero ha anche una sua finalità pubblica nella vita della Chiesa e della società, deve avere o dare visibilità alla fede come forza di vita. Di fatto, quando il 21 marzo 547 Benedetto concluse la sua vita terrena, lasciò con la sua regola e con la famiglia benedettina da lui fondata un patrimonio che fino ad oggi ha portato frutto in tutto il mondo e porta frutto. Nell'intero secondo libro dei Dialoghi San Gregorio ci illustra come la vita di San Benedetto fosse immersa in un'atmosfera di preghiera, fondamento portante della sua esistenza. Senza preghiera non c'è esperienza di Dio. Ma la spiritualità di Benedetto non era una interiorità fuori dalla realtà della realtà. Nell'inquietudine, nella confusione del suo tempo, egli viveva sotto lo sguardo di Dio e con il proprio sguardo rivolto verso Dio, e proprio così non ha perso di vista i doveri della vita quotidiana, e l'uomo con i suoi bisogni concreti vedendo Dio, ha capito la realtà dell'uomo e la sua missione. Nella sua regola, egli qualifica la vita monastica una scuola del servizio del Signore e chiede ai suoi monaci che all'opera di Dio, cioè all'ufficio divino, alla liturgia, non si anteponga nulla. Sottolinea però che la preghiera è in primo luogo un atto di ascolto che deve poi tradursi in azione concreta. Dice nel prologo della regola: il Signore attende che noi rispondiamo ogni giorno con i fatti ai suoi santi insegnamenti. In questo modo la vita del monaco diventa una simbiosi feconda tra azione e contemplazione, affinché in tutto venga glorificato Dio. In contrasto con una autorealizzazione facile ed egocentrica, oggi spesso esaltata, l'impegno primo ed irrinunciabile del discepolo di San Benedetto non è autorealizzarsi, ma è la sincera ricerca di Dio sulla via tracciata dal Cristo umile ed obbediente, all'amore del quale egli non deve anteporre alcunché, e proprio così è nel servizio dell'altro, diventa uomo dell'amore e della pace. Nell'esercizio dell'obbedienza posta in atto con una fede animata dall'amore, il monaco conquista l'umiltà, alla quale la regola dedica un intero capitolo. In questo modo l'uomo diventa sempre più conforme a Cristo e raggiunge la vera autorealizzazione come creatura ad immagine e somiglianza di Dio. All'obbedienza del discepolo deve corrispondere la saggezza dell'abate, che nel monastero tiene le veci di Cristo. La sua figura, delineata soprattutto nel secondo capitolo della regola, con un profilo di spirituale bellezza, di esigente impegno, questa figura descritta di San Benedetto possiamo considerare come un autoritratto di San Benedetto. Poiché, come scrive San Gregorio, il santo non poté in alcun modo insegnare diversamente da come visse. L'abate deve essere insieme un tenero padre e anche un severo maestro, un vero educatore. Inflessibile contro i vizi, è però chiamato soprattutto ad imitare la tenerezza del buon pastore, ad aiutare piuttosto che a dominare, ad accentuare più con i fatti che con le parole tutto ciò che è buono e santo, e ad illustrare i divini comandamenti col suo esempio. Per essere in grado di decidere responsabilmente, anche l'abate deve essere uno che ascolta il consiglio dei fratelli, perché scrive: spesso Dio rivela al più giovane la soluzione migliore. Questa disposizione rende sorprendentemente moderna una regola scritta quasi 15 secoli fa e che un uomo di responsabilità pubblica o anche in piccoli ambiti deve sempre essere anche un uomo che ascolta e sa imparare da quanto ascolta. Benedetto qualifica la sua regola come minima regola, tracciata solo per l'inizio. In realtà però essa offre indicazioni utili non solo ai monaci, ma anche a tutti coloro che creano una guida nel cammino della vera vita umana, nel cammino verso Dio. Per la sua misura, la sua umanità e il suo sobrio discernimento tra l'essenziale e il secondario nella vita spirituale, questa regola ha potuto mantenere la sua forza illuminante fino ad oggi. Paolo VI, proclamando nel 24 ottobre 1964 San Benedetto patrono d'Europa, intese riconoscere l'opera meravigliosa svolta dal Santo mediante la regola per la formazione della civiltà e della cultura europea. Oggi l'Europa, uscita appena da un secolo profondamente ferito da due guerre mondiali e dopo il crollo delle grandi ideologie rivelatesi come tragiche utopie, l'Europa è alla ricerca della sua propria identità. Per creare una unità nuova e duratura sono certo importanti gli strumenti politici, economici, giuridici, ma occorre anche suscitare un rinnovamento etico e spirituale che attinga alle radici cristiane del continente, altrimenti non si può ricostruire l'Europa. Senza questa linfa vitale, l'uomo resta esposto al pericolo di soccombere all'antica tentazione di volersi redimere da sé, utopia che in modi diversi l'Europa del Novecento ha causato, come ha rilevato il Papa Giovanni Paolo II, un regresso senza precedenti nella tormentata storia dell'umanità. Cercando il vero progresso, ascoltiamo anche oggi la regola di San Benedetto come una luce per il nostro cammino. Rimane San Benedetto un vero maestro nella cui scuola possiamo l'arte di vivere l'umanesimo vero. Grazie.